Civiltà. La scuola. Una scuola per ogni età. Il sistema scolastico italiano prevede due tipi di scuola. La scuola pubblica, che funziona con i finanziamenti dello Stato, e la scuola privata. I livelli in tutte e due i tipi sono uguali, cioè l'asilo nido per bambini inferiori ai 3 anni, la scuola dell'infanzia, scuola materna, dai 3 ai 6 anni, la scuola primaria, scuola elementare, dai 6 agli 11 anni, la scuola secondaria di primo grado, scuola media inferiore, dagli 11 ai 14 anni, e la scuola secondaria di secondo grado, scuola media superiore, dai 14 ai 19 anni. In Italia l'obbligo scolastico va dai 6 ai 16 anni.